come avevano ben compreso molti pensatori e pensatrici anarchiche, e come hanno descritto efficacemente Reich e poi Michel Foucault, è lo stesso immaginario collettivo a essere stato colonizzato attraverso una sapiente e tenace azione di condizionamento che ha fatto interiorizzare in ciascuno e ciascuna di noi il precetto dell'obbedienza, fino al punto di far pensare a tutti e tutte che obbedire sia solo obbedire a se stesse. In realtà non è così, e la disobbedienza è non solo necessaria, ma anche il primo e inevitabile atto di ribellione per chi desidera e pretende di rispettare se stesso, se stessa. Autonomia. Per me il principio fondamentale dell'anarchismo non è la libertà, bensì l'autonomia, cioè la capacità di intraprendere un compito e di farlo a modo proprio. Così scriveva Paul Goodman, uno dei personaggi più influenti della contestazione giovanile degli anni 60, in uno dei suoi ultimi articoli. Goodman era consapevole di quanto fosse difficile per quei giovani e quelle giovani contestatrici far proprio questo concetto. Molto più forte e coinvolgente era il desiderio di libertà, percepita come la più potente motivazione per innescare il mutamento politico. Le persone che hanno raggiunto un alto grado di autonomia sanno difendersi con tenacia, seppure con mezzi meno energici e ricorrendo a una resistenza per lo più passiva, e tendono a realizzare le cose che vogliono, creando spazi di agibilità anche dentro le maglie soffocanti di una società oppressiva. Per contro, quando talvolta gli oppressi si liberano, spesso non sanno come agire, come usare la loro libertà. Non essendo mai stati autonomi, non sanno che cosa significhi e prima che imparino, si ritrovano con nuovi dirigenti che non hanno alcuna fretta di abdicare. Questo concetto è quindi di vitale importanza per l'agire libertario. Il principio più strettamente legato al concetto di autonomia è quello di responsabilità. Secondo il pensiero anarchico, le persone responsabili riconoscono di avere obblighi morali verso gli altri, ma al contempo ritengono fermamente che solo loro sono giudici di queste restrizioni. Possono dare ascolto al consiglio di un altro e farlo proprio, ma decidono da sole e lo assumono a livello individuale. Gli obblighi dunque possono essere appresi dagli altri, ma si traducono in comportamenti solo se liberamente accettati e condivisi. Questo apprendimento è quindi sempre filtrato dall'esperienza personale e dalla libertà individuale. Per essere autonomo, il singolo non può essere soggetto al volere di un altro, può fare ciò che un altro gli dice, ma non perché gli è stato detto o peggio imposto. In questo senso è libero. L'autonomia morale è dunque l'assunzione della piena responsabilità delle proprie azioni, il che implica, per converso, che ciascuno può abdicare alla propria autonomia nel momento stesso in cui rifiuta di impegnarsi nella riflessione morale e accetta gli ordini di altri. Perdendo questa prerogativa, si abdica anche alla propria libertà. Ci sono forme e gradi diversi di perdite, alcune inevitabili o addirittura necessarie. Quando ci rimettiamo all'autorità tecnica di un ciabattino per riparare le nostre scarpe, per riprendere il famoso esempio utilizzato da Bakunin, non rinunciamo alla nostra libertà e tantomeno alla nostra autonomia. Semplicemente riconosciamo in un altro le competenze che noi non possediamo. Assumersi la responsabilità delle proprie azioni significa prendere decisioni su ciò che si deve fare. Come ha scritto giustamente Robert Paul Wolff, in un suo pamphlet del 1970 intitolato In difesa dell'anarchia, per le persone autonome non esistono cose che si possono chiamare ordini. Nella vita in generale, come in politica, le persone rinunciano spesso alla loro autonomia, diventano volontariamente serve di qualcuno per pigrizia, interesse, abitudine, comodità, paura. Questa rinuncia più o meno consapevole ha generato famiglie, gruppi, società che fondano la loro sopravvivenza sulla deresponsabilizzazione e su quella che Erich Fromm ha dichiarato fuga dalla libertà. L'autonomia è essenzialmente darsi da sé le proprie leggi, non accettare mai una legge unica e universale e soprattutto sottoporre a interrogazione sistematica ogni legge e ogni fondamento. L'autonomia è dunque un agire riflessivo, al tempo stesso individuale e sociale, che si sviluppa in un movimento senza fine. Come scrive Cornelius Castoriadis, posso dire che stabilisco la mia legge quando vivo necessariamente sotto la legge della società? Sì, in un unico caso, se posso dire riflessivamente e lucidamente che questa legge è anche la mia. Per poterlo dire, non è necessario che l'approvi, basta che io abbia avuto la possibilità effettiva di partecipare attivamente alla formazione e al funzionamento della legge. Essere persone autonome è dunque sicuramente faticoso, perché obbliga ciascuno, ciascuna di noi, a un continuo lavoro su se stessa, su se stesso, a una puntuale verifica di compatibilità fra i propri desideri e quelli altrui. Richiede, cioè, un apprendimento costante. Libertà, licenza. La parola libertà può contare su oltre 200 significati e altrettante definizioni. E dunque diventa qui impossibile dare conto di una valutazione complessiva del concetto. Pertanto ci limitiamo a esprimere gli elementi essenziali che le persone anarchiche attribuiscono a questo valore, ritenuto da tutti e da tutte il più significativo e importante attributo dell'idea anarchica. Così, se Bakunin si definiva un amante fanatico della libertà, il filosofo liberale Karl Popper considerava l'anarchismo un'idea esagerata di libertà. Dentro lo spazio simbolico e concettuale di queste due definizioni stanno racchiuse le considerazioni libertarie su questo tema. Come accade per altri valori ritenuti fondamentali, anche la libertà è considerata dalle persone anarchiche un principio che si deve coniugare in modo armonico e continuativo con gli altri principi. Io non sono veramente libero se non quando tutti gli esseri umani che mi circondano, uomini e donne, sono libere allo stesso modo. Di modo che, quanto più numerose sono le persone libere che mi stanno attorno, e quanto più profonda e più vasta è la loro libertà, e quanto è più estesa, tanto più profonda e più grande è la mia libertà. Bakunin, Dio e lo Stato. 1882. In questa cruciale espressione Bakunin risolve il rapporto fra la libertà del singolo e quella degli altri. In altre parole, secondo il rivoluzionario russo, la libertà del singolo non finisce dove comincia quello dell'altro, come diffusamente si sostiene. Al contrario, la libertà degli esseri umani che ci sono prossimi è la condizione indispensabile per la nostra personale libertà. Se si condivide questo assunto, allora non si può confonderla con la licenza. Infatti, secondo l'etica anarchica, nessuno può fare ciò che vuole se questo limita la libertà dell'altro, così come nessuno può impedire a un essere umano di fare ciò che desidera. La regolazione di queste due possibilità è determinata esclusivamente dall'etica individuale. E nessuna autorità può decidere a chi concedere la possibilità di agire e a chi no. Questo significa che i problemi si pongono nell'ambito del fare, mentre nessun vincolo può essere messo al pensare, al desiderare e tantomeno allo scrivere o al pubblicizzare le proprie convinzioni. È purtroppo vero che gli interessi e le passioni e i gusti degli esseri umani non sono naturalmente armonici e che dovendo vivere insieme in società, è necessario che ciascuno e ciascuna cerchi di adattarsi e conciliare i desideri suoi con quelli delle altre persone e arrivare a un modo di vivere e di agire che possa nel miglior modo possibile soddisfare se stessa, se stesso e gli altri. Questo significa limitazione della libertà e dimostra che la libertà, intesa nel senso assoluto, non potrebbe risolvere la questione di una volontaria felice convivenza sociale. La questione può essere risolta solo dalla solidarietà, dalla fratellanza, dalla sorellanza, dall'amore, il quale fa sì che il sacrificio dei desideri inconciliabili con quelli delle altre persone si fa volontariamente e con piacere. La società armonica non può nascere che dalle libere volontà, che liberamente si armonizzano sotto la pressione della necessità della vita e per soddisfare a quel bisogno di fratellanza e di sorellanza e di amore che fiorisce sempre fra le persone non appena sono libere dal timore di essere sopraffatte e di mancare del necessario per sé e per la famiglia. Enrico Malatesta, Il concetto di libertà, 1920. L'anarchismo rivendica dunque la libertà coniugata alla solidarietà, in una visione non astratta ma concreta, fondata sulla stessa libertà per tutti e per tutte, la libertà sociale. Scrive ancora l'anarchico italiano: la libertà che vogliamo noi non è il diritto astratto di fare il proprio volere, ma il potere di farlo. Quindi suppone in ciascuno e in ciascuna i mezzi di poter vivere e agire senza sottoporsi alla volontà altrui. Enrico Malatesta, a proposito di libertà, 1921. La libertà delle persone anarchiche non è assoluta, ma una possibilità tra persone uguali, che si relazionano fra loro e che quindi si danno liberamente delle regole comuni. Essa non è una certezza, ma una possibilità che si concretizza solo se è preceduta dalla capacità di essere persone autonome. Non è solo assenza di costrizioni e non interferenza esterna, concezione negativa, ma anche possibilità concreta di fare determinate cose, concezione positiva. La libertà configura la condizione di chi non è prigioniero, non ha restrizioni, non è confinato o impedito. In senso più ampio, è anche la facoltà dell'essere umano di agire e di pensare in piena autonomia, è la condizione di chi può agire secondo le proprie scelte. Si può dire che chi compie un'azione è libero quando ha la possibilità di scelta e l'azione stessa è intelligente, spontanea, contingente e non lesiva delle altre persone. Intelligente in quanto l'azione libera comporta la conoscenza dell'oggetto della deliberazione. Senza di esse, infatti, chi delibera non potrebbe determinarsi a seguire il fine della sua azione, poiché questo gli è sconosciuto. Spontanea, in quanto la causa dell'azione sta in chi la delibera, come conseguenza cioè della propria volontà, e non all'esterno, poiché se così non fosse, l'azione non sarebbe libera, ma necessitata da cause esterne. Contingente, in quanto l'azione non deve essere conseguenza di una necessità assoluta, non lesiva degli altri, perché altrimenti sarebbe licenza. La libertà dunque non può compiersi da sola, ma solo coniugandosi con autonomia, solidarietà, volontà, in una dinamica infinita.